Notte sul Dodecaneso. Nel 1940 Antonio, un contadino che la guerra fascista ha trasformato in soldato, sbarca a Rodi. Partendo dalla sua storia, in 3 puntate speciali, entreremo in pagine dimenticate del nostro passato. L'occupazione italiana in Egeo, l'8 settembre delle isole e la deportazione della comunità ebraica di Rodi e Kos. Io non ho vissuto i giorni terribili del fronte occidentale francese, non ho partecipato all'epopea africana, non ho combattuto sulle steppe della Russia o sui monti ghiacciati del fronte greco-albanese. La mia partecipazione alla guerra è tutta compresa nei 3 giorni di scaramucce nell'Isola delle Rose, sparando raffiche alla cieca contro uomini che avevano il solo torto di indossare una divisa diversa dalla mia. Con parole simili, Antonio Santoni, mio nonno, avrebbe potuto raccontare la sua esperienza di combattimenti durante la Seconda Guerra Mondiale. Poi sicuramente sarebbe tornato a quei racconti che gli piaceva fare, citando a memoria parole in francese e latino che aveva imparato sfogliando i corsi per il diploma in corrispondenza di qualche soldato, in lunghi pomeriggi ad una centralina telefonica. Lui era stato inviato nel Dodecaneso come telegrafista della Divisione Regina a causa di un corso di specializzazione seguito alla Gioventù Italiana del Littorio. E in quel fronte sonnolento il tempo lo ingannava così, soddisfacendo una curiosità lasciata in evasa della scuola frequentata fino alla terza elementare. Ma queste parole lui non me le ha mai dette, semplicemente perché io non gli ho mai chiesto nulla. La sua guerra sembrava ai miei occhi di ragazzo non aver nulla da dire. 3 anni su un'isola senza sparare un colpo e poi la prigionia in Polonia prima di tornare a Filottrano. Ora è troppo tardi per fargli delle domande, per cui provo a farlo parlare tramite ricordi di altri, come quelli presi dal diario di prigionia del siciliano Giovanni Modica Scala, che racconta di una guerra ai suoi occhi breve, ma non per questo meno vera. Una guerra arrivata, paradossalmente, proprio con l'armistizio, l'8 settembre del 1943. E con la guerra arrivò anche sulle isole il momento delle scelte. In questa puntata di Notte sul Dodecaneso, lo speciale di Vallun dedicato al biennio 43-45 dei possedimenti italiani in Egeo, Fre che vi parla, assieme a Olga, Lara, Debs, Alessia e Perry, racconteremo proprio di questo scarto in avanti della storia, quando uno scenario assolato come quello descritto da Salvatore nel film Il Mediterraneo si trasforma prima in guerra, poi in resistenza, infine fucilazioni e per migliaia di soldati in lager. Le isole del Dodecaneso, o meglio, come dicevano gli italiani, il possedimento italiano delle isole dell'Egeo, erano uno scacchiere secondario all'interno del conflitto della Seconda Guerra Mondiale, del mare e della terra di quel contesto, ecco. C'era avvenuto poco, perché non erano sulle rotte principali dei combattimenti, anche se i combattimenti in Africa coinvolgevano, in Nord Africa coinvolgevano ogni tanto le isole, ma più come per qualche azione di disturbo dei nemici che per altro. Le isole erano un territorio italiano molto prima della campagna di Grecia del 1940, perché appartenevano all'Italia dal prefascismo, dal 1912. C'era l'isola principale era Rodi, dove c'era appunto nello scacchiere bellico, quindi diciamo nella Seconda Guerra Mondiale, la divisione Regina, che era poi dislocata in reparti più piccoli anche sulle isole minori, a partire c'era Rodi, l'isola principale, poi c'era Kos e c'erano altre isole. C'erano anche lì piccoli reparti che avevano vissuto una guerra particolare, strana rispetto a quella di altri loro coetanei, connazionali che erano impegnati su altri fronti. Questo vale un po' per tutte le isole, anche le isole occupate nella campagna 40-41, penso alle Ionie, perché la guerra in quelle isole era una guerra di controllo del territorio più che di conflitto armato. Penso si sentissero fortunati rispetto ai loro connazionali o coetanei impegnati in Russia o anche in Nord Africa. La guerra arrivò in quel contesto proprio nel settembre del 1943 e fu una guerra che, proprio perché inattesa e inaspettata, trovò gli italiani impreparati, tanti avevano praticamente non avevano neanche mai sparato e si trovarono improvvisamente a dover reagire all'attacco degli loro ex camerati fino al giorno prima. Questo fu uno shock perché poi la guerra in un'isola è una guerra difficilissima, perché da un'isola, a differenza che quando si è in terraferma, non si scappa, non si torna a casa, non si fa il tutti a casa con quella che si pensa sia una certa facilità. In realtà non fu facile per nessuno il tutti a casa, ed è per lo più un mito dell'identità nazionale più che una realtà della storia, ma sicuramente non si poteva fare da quelle isole. Isabella Insolvibile è una storica che a lungo si è occupato di resistenza italiana e in particolare di quella che è stata la resistenza degli IMI, gli internati militari italiani, in particolare nelle isole greche, prima occupandosi di Cefalonia e poi di Kos, una delle isole di cui vi parleremo. Ci introduce in una strana guerra in cui non succede nulla. Come sembrerebbe anche dalle foto di quegli anni di mio nonno Antonio. Si vede un giovane soldato svagato che, quando viene immortalato in armi, sembra che lo sia quasi per gioco, sempre con un largo sorriso sulle labbra. La realtà è più articolata, ovviamente. Certo, i 40.000 soldati dislocati in Egeo non hanno mai avuto seri scontri con il nemico, ma vivono nella quotidianità il precario stato dell'esercito italiano nella guerra fascista. I militi che non sono di stanza proprio alla caserma della divisione, in centro, a Rodi, sono demotivati per la costante inattività. Vivono in accampamenti fatiscenti, privi delle condizioni igieniche minime, tanto che spesso arrivano a costruire da sé, usando per le brande i fusti di benzina esausti. E frequenti sono cause di malattie come la scabbia o la malaria, che nel 1942 risultava essere stata contratta da 5.000 uomini. A fronte delle difficoltà degli italiani, cresce anche nel Dodecaneso il peso degli alleati germanici. Già dal gennaio del 1943 iniziano a giungere sull'isola rinforzi tedeschi fino a formare una vera e propria divisione corazzata, la Rodos, guidata dal generale Ulrich Kliemann, l'uomo che, approfittando delle debolezze del governatore militare dell'isola, l'ammiraglio Inigo Campioni, dopo l'8 settembre avrebbe preso nell'arco di 3 giorni Rodi e di un paio di mesi tutto l'arcipelago del Dodecaneso. Esiste una specificità di un 8 settembre in un territorio insulare, indubbiamente, perché il primo istinto di un soldato, che tra l'altro sta lì magari da anni, che non ha avuto licenze, che non vede i propri cari da un tempo infinito e con i quali può comunicare nel nostro tempo, nella nostra contemporaneità, questo è un dato da sottolineare perché ci si potrebbe sembrare assurdo, no? Noi ci mandiamo messaggini immediati anche dall'altra, con l'Australia, all'altra parte del mondo. Loro potevano comunicare solo per lettera ed erano queste lettere che ci mettevano mesi per arrivare, che passavano attraverso la censura, che non ci poteva essere un dialogo con lettere che andavano appunto in giro per mesi e mesi. A volte questi soldati sapevano della morte dei genitori, per dire, mesi dopo i decessi, insomma una situazione del genere. E la specificità di un'isola è ancora rapportare tutto questo in termini ancora maggiori, superiori, nel senso che un'isola è ancora più, appunto, scusate il gioco di parole, isolata rispetto agli scacchieri bellici. E questo l'8 settembre si vide proprio, perché il loro istinto, quello di farla finita con la guerra, perché l'8 settembre fu la guerra è finita per tutti gli italiani, non soltanto per quelli che stavano nelle nostre città metropolitane, ma anche per quelli che erano al fronte in guerra, l'istinto di farla finita, di tornare a casa, fu praticamente reso immediatamente impossibile dal mare. Il mare è un'immensa via di comunicazione, lo sappiamo, lo è in tutta la storia dell'umanità, però in un contesto come quello è indubbiamente un altro fronte, un fronte pericolosissimo e un ostacolo insuperabile. Da alcune isole del Dodecaneso, ad esempio, penso a Kos, la terraferma, la Turchia in particolare, non è lontana, sono 5 miglia marine, eppure quelle 5 miglia sono insuperabili se c'è qualcuno che non vuole fartele superare, oppure tu non hai materialmente i mezzi. Dalle isole dello Ionio, per esempio, in Cefalonia in particolare, lì arrivò un ordine che l'8 settembre, uno dei pochi ordini chiari, era quello del rientro in Italia dei mezzi nautici. Cioè praticamente questi soldati si trovarono abbandonati su un'isola senza le barche per andare via. E questa è indubbiamente una specificità che rende le cose ancora più complesse. Solo lì però, forse proprio per questa complessità, si ebbero i principali tentativi di resistenza, anche perché non c'era un'altra scelta. Isabella Insolvibile ci ha dato un quadro abbastanza variegato di quello che successe nelle isole dello Ionio e dell'Egeo, ma ci arriveremo. Intanto restiamo all'isola di Rodi, cercando di capire cosa possa essere stato l'8 settembre di mio nonno Antonio. L'annuncio dell'armistizio viene ascoltato alla radio nella sala mensa della caserma della regina, sull'attenti, come d'abitudine, durante le trasmissioni del bollettino di guerra. Gli ufficiali tedeschi presenti si alzano, salutano militarmente e si allontanano in silenzio dalla mensa. La notte dall'8 al 9 fu tremenda. La caserma si era trasformata in una vera e propria bolgia dantesca. Tutti i soldati urlavano di gioia gridando «La guerra è finita! Si torna a casa!». Entrando nella camerata del mio reparto, udii uno dei miei uomini che, con la gavetta ancora piena di rancio, stava urlando che non avrebbe ubbidito a nessuno. Il mio pugno si abbatté sulla tavolata facendo capovolgere la gavetta, il cui contenuto gli si rovesciò in faccia. Gridando che la guerra per noi iniziava solamente ora, tirai fuori la pistola e minacciai di sparare a chiunque non obbedisse immediatamente ai miei ordini e non si comportasse da soldato. Pur essendo un semplice tenente, comprendevo che la tragicità del momento rendeva necessarie unione e decisione al fine di giungere alla salvezza di tutti. Dopo aver chiarito questa inconfutabile verità ai soldati, incitandoli ad obbedire agli ordini, li misi in stato d'allarme, pronti con le armi in pugno, in attesa di altri comandi. Alle ore 2:15 del 9 settembre viene trasmesso il telegramma 24202 che inizia ambiguamente così: Egeo Mil est libero assumere verso germanici atteggiamenti che riterrà più conformi at situazione. Alle 2:30 partono dal Cairo i maggiori britannici Dobley e Jellicoe con l'incarico del generale Wilson di organizzare la resistenza dell'isola. A Rodi c'era una dozzina di generali e di ammiragli. Burocrazia, interferenze di comandi, gelosie, incomprensioni. Cose naturali, si dice, quando c'è sete di comando e desiderio di rapide e brillanti carriere, ma nel momento del pericolo nessuno osò comandare. Di carriera pareva loro sufficiente quella percorsa e tergiversando tentarono di salvare i galloni d'argento. Il loro atteggiamento non fece che riprodurre e accentuare irreparabilmente le ambiguità e le incertezze delle disposizioni del governo Badoglio. Dolby porta sull'isola la garanzia che le truppe alleate sarebbero arrivate, ma si deve tenere fino al 15, assicurandosi che il porto e l'aeroporto rimangano sempre liberi. Campioni ha paura ed è insicuro, per questo si muove anche su altri tavoli. Già dalla notte dell'8 settembre ha parlato con il tedesco Kliman, a cui ha accordato 24 ore di tempo per riunire le sue truppe e addirittura gli ha concesso di occupare alcune postazioni militari, fra cui l'aeroporto di Maritza. Il dodecaneso rappresenta appunto un quadro, presenta un quadro diverso rispetto ad altri territori, perché la presenza italiana in quelle isole è di lungo corso, di lunga durata. Insomma, c'erano anche degli uffici civili strutturati, cioè le isole erano territorio nazionale, erano un possedimento sottoposto al Ministero degli Esteri e non delle colonie. Questo rendeva le cose diverse rispetto ad altri territori militarmente occupati. Queste sono differenze che gli storici fanno per capire, far comprendere il contesto. Che cosa succede? Succede che per esempio a Rodi, che è l'isola diciamo capoluogo, c'è una divisione sostanziosa, ci sono 35.000 uomini della divisione regina, guidati tra l'altro da quello che è anche il governatore del Dodecaneso. Purtroppo la resistenza in quest'isola non si verifica. Quando si diffonde la notizia della resa, a Rodi scoppia il panico. Alla caserma della Regina qualche ufficiale tenta di nascondersi nei secchi della spazzatura, mentre un sottufficiale della Marina si butta a capo fitto per le scale per sfracellarsi la testa pur di non consegnarsi vivo, e un tenente di 19 anni si spara alla tempia di fronte a tutti. Molti soldati ormai sbandati corrono verso il porto, dove prendono d'assalto i motovelieri in rada, barche e barchette di ogni dimensione per farli partire carichi all'inverosimile verso la Turchia, zona neutrale. Non credono più alle voci di un qualche salvataggio. Il fatto è che dalle porte medievali della città entrano a passo marziale le truppe della Wehrmacht. Si chiude così l'8 settembre di Rodi e si apre una nuova pagina, quella del terrore per gli abitanti dell'isola e quella della deportazione della prigionia per migliaia di soldati ufficiali. Antonio è fra questi. Mia cugina Federica si ricorda che nonno ha passato anni a ripercorrere le tappe della sua odissea di internato militare attraverso l'Europa, disegnandola su un atlante geografico, uno dei pochi libri che aveva in casa. Chissà che fine ha fatto. Questa è una traccia che ora non possiamo seguire. Dobbiamo spostarci sulle altre isole dell'Egeo, dove l'8 settembre seguì decisamente altre strade. L'ammiraglio Campioni ha qualche momento di esitazione e vorrebbe, si rende conto della superiorità in uomini e mezzi, però la divisione Regina a Rodi cede praticamente subito. Entro l'11 settembre i 7.000 tedeschi che sono presenti sull'isola prendono il controllo del territorio e prendono prigionieri gli italiani, tra cui Campioni, che non vogliono collaborare direttamente con loro. Campioni però fa una scelta, decide di rifiutare di ordinare alle isole a lui sottoposte, a partire da Kos e Leros, di arrendersi ai tedeschi. E in queste isole si avranno i principali tentativi di resistenza dello scacchiere del Mediterraneo orientale. La prima resistenza si ha a Kos, che è un'isola molto interessante per i tedeschi perché ha all'interno delle piste di atterraggio, diciamo un aeroporto, però aeroporto è già una parola grossa, che interessa molto ai tedeschi perché temono che se cadesse questo aeroporto in mano britannica, in mano nemica, quella potrebbe essere una base importante per attaccare altri territori in mano tedesca. Quindi i tedeschi cominciano subito ad attaccare dal cielo Kos, però Kos interessa appunto anche agli alleati, anche ai britannici, in particolare interessa a Churchill e interessa a Churchill, al premier britannico, da tempo. Churchill era convinto che si dovesse fare una strategia bellica orientata al Mediterraneo orientale, orientata alla penisola balcanica, quindi alla Grecia e anche alle aree più orientali come il Dodecaneso. In questo era però in contrasto con i grandi alleati americani, che invece ritenevano che bisognasse concentrare le proprie forze sull'Europa centrale, quindi sull'Italia, ma anche su quella che era la big thing, cioè la preparazione dell'operazione Overlord, lo sbarco in Normandia e quindi l'attacco alla Germania. Una serie di contrasti tra queste due forze, tra queste due superpotenze, porteranno a un impegno indubbiamente nel Dodecaneso da parte delle forze del Commonwealth, ma un impegno ridotto perché gli americani non vogliono partecipare, e quindi Churchill invia effettivamente i suoi uomini a Kos e in altre isole, a Leros in particolare, ma l'impegno che le forze che possono dislocare in queste isole sono ridotte. Infatti a Kos si avrà un tentativo di resistenza, soprattutto contro lo sbarco dei tedeschi che sbarcheranno sull'isola all'alba del 3 ottobre del 43, ma che verrà però infranto poche ore dopo perché senza aerei e senza mezzi neanche gli inglesi riescono a fare una lunga resistenza. Questo però comunque è un episodio da ricordare perché possiamo considerarlo come una anteprima, una prima prova di quella che sarà poi qualche giorno dopo la co-belligeranza fra l'Italia e gli alleati, i nuovi alleati, co-belligeranti più che alleati appunto. Nell'estate del 2023, a distanza di qualche settimana, sia io che Debs abbiamo visitato l'isola di Kos. Sull'isola non si trova quasi nulla che ricorda gli anni dell'occupazione italiana e la guerra. Una targa trovata da Debs all'interno del ristorante Platanos, di fronte a quella che era stata la prefettura italiana, in cui si ricordavano tre civili greci impiccati in piazza dagli occupanti tedeschi, e una stele dedicata agli ufficiali italiani, fucilati, all'interno del cimitero cattolico, poco fuori dal centro, da tempo però inaccessibile. Come ebbe a commentare Debs, un silenzio quasi assordante. Discorso decisamente diverso per l'Eros. Oltre al cimitero di guerra britannico sulla spiaggia di Alinda ci sono ben due musei dedicati alla guerra. Si tratta di esposizioni realizzate da collezionisti, molto emozionanti per l'enorme quantità di materiale, ma poco storicizzati. Per mia fortuna quest'estate, quando ho visitato uno di questi, ho incontrato Nikos Kafensis, animatore della rievocazione storica della battaglia di Leros, che ci ha guidato nella visita. Per Nikos quegli oggetti raccontavano un momento chiave della Seconda Guerra Mondiale. Nelle settimane che andarono dal 26 settembre al 16 novembre del 1943, che videro contrapposti i soldati e marinai italiani di stanza sull'isola, assieme al contingente britannico sbarcato da Malta, da un lato, e dall'altro la Wehrmacht, si registrò l'ultima vittoria del Terzo Reich, ma anche la più coraggiosa e onorevole azione di guerra dell'esercito italiano. Con la caduta di Leros chiudiamo questa seconda puntata di Notte sul Dodecaneso, lo speciale di Valluna dedicato al biennio 43-45 dei possedimenti italiani in Egeo. La prossima puntata sarà dedicata a quanto successo dopo l'occupazione tedesca nell'arcipelago, due anni drammatici in cui le isole del Dodecaneso verranno lasciate dagli alleati in mano nazista fino alla fine del conflitto, avendo ormai perso importanza strategica e per questo condannate alla carestia e alla brutale repressione. Noi vi lasciamo dedicando un pensiero ai 4.200 soldati italiani del piroscafo Oria, indirizzati alla prigionia per aver rifiutato di continuare a combattere con la Repubblica Sociale e il Reich, che morirono in un naufragio il 12 febbraio del 1944. Una maniera con cui vogliamo indirizzare un pensiero ai tanti e alle tante che muoiono durante le guerre senza armi. Notte sul Dodecaneso è uno speciale in tre puntate di Van Loon, la mezz'ora di storia di e con Radio Città Fujiko. Il biennio 43-45 dei possedimenti italiani in Egeo attraverso la storia di Antonio, telegrafista della divisione Regina, e della deportazione degli ebrei del Dodecaneso. Puoi seguire il programma radio Van Loon la domenica mattina alle ore 11 sui 103.1 FM di Radio Città Fujiko, o ritrovarlo sul nostro canale Telegram Radio Van Loon o sul nostro sito www.radiovanloon.info. Notte sul Dodecaneso, insieme agli altri speciali in podcast, è disponibile anche sulle principali piattaforme audio.